زي ما تلت اجدادي اجل القانون عالفاضي ما انت يعد وبتلعب دور الشاهد المحامي والقاضي علي قاضي نهايتي بقى. Ebbene, torniamo a parlare delle elezioni in Palestina il prossimo 9 gennaio con il nostro ospite Marco Di Novara, appena laureato proprio sulla tesi che riguarda il conflitto israelo-palestinese. Parto con la prima domanda, ecco, molto generica, però così per scaldarci un attimo. Secondo te che cos'è in gioco con queste elezioni in Palestina? Ma sicuramente sono in gioco tutta una serie di cariche, di istituzioni la cui gestione avrà un peso, tipo la presidenza dell'ANP avrà un peso nei prossimi anni. Soprattutto secondo me le elezioni e soprattutto il periodo post-elettorale, ci sono un paio di scadenze importanti, almeno sicuramente l'Assemblea Generale di Fatah che si farà a luglio. Periodo post-elettorale, le elezioni ci possono dare delle indicazioni su quelli che sono i temi politici, diciamo caldi, scottanti nell'ambito della scena politica palestinese, che problemi che vanno al di là anche della presidenza dell'ANP, ma appunto un contrasto tra all'interno di Fatah, il ruolo degli islamici che comunque hanno dichiarato che si pongono fuori dai meccanismi elettorali, boicotteranno le elezioni, per cui le elezioni saranno un indicatore importante rispetto a tutta una serie di problemi che però vanno ben oltre le elezioni, che determineranno anche in modo più strutturale quello che sarà il futuro della Palestina o quantomeno del campo palestinese. E invece volevo chiederti che ruolo avrà, secondo te, che ruolo potrebbe avere l'Unione Europea, che appunto ha annunciato che ci saranno dei monitoraggi, manderanno dei commissari, poi bisognerà vedere se la cosa andrà in porto, perché ovviamente il governo israeliano pone il veto, insomma non riconosce questo tipo di cose. Ecco, come si svilupperà questo meccanismo e se avrà poi qualche ruolo, qualche conseguenza concreta, insomma, che non rimanga come al solito una roba campata in aria, poi che non produce nessun risultato, come è successo finora, insomma, in un'Europa sempre comunque divisa tra le varie correnti, quelle europeiste, quelle filo-atlantiche, filo-americane e così via. Ma da un primo punto di vista io penso che la questione del monitoraggio cioè aveva una rilevanza all'inizio, quando determinate cose ancora non si sapevano. Ora in realtà mi sembra che tutto sommato su questo punto le elezioni diranno molto poco, nel senso c'è un candidato che vincerà sicuramente, è Abu Mazen, l'altro candidato, diciamo così, che prenderà un tot di voti, una parte significativa dei voti, e bisogna vedere quanti, è Mustafa Barghouti. Però sull'elezione di Abu Mazen non ci sono ormai praticamente nessuna sorpresa possibile, per cui il monitoraggio, diciamo così, le elezioni saranno regolari in quanto andrà su il candidato comunque votato dalla stragrande maggioranza degli elettori. Non ci sarà neanche bisogno per Abu Mazen di fare brogli, voglio dire. Per quanto riguarda il ruolo più in generale dell'Unione Europea, io penso che per il futuro sarà, cioè per un futuro, diciamo, prossimo, descrivibile, sarà nullo come è stato nel passato, nel senso l'Unione Europea in questi ultimi 15 anni ha cacciato i soldi, tiene a galla in gran parte le istituzioni palestinesi mediante il finanziamento internazionale, però di fatto non ha nessun ruolo politico, non ha né una posizione, come appunto dicevi tu, definita da dire, né ha mai deciso di dotarsi degli strumenti, delle iniziative, anche da un punto di vista diplomatico, eccetera, eccetera, che gli consentissero di agire sulla cosa. Israele poi ascolta solo gli Stati Uniti, se ascolta gli Stati Uniti, per cui di fatto gli europei rimarranno a guardare sostanzialmente da un punto di vista politico. Sì. E invece per quanto riguarda, appunto, dicevi prima che Hamas, quindi anche la Jihad, boicotterà le elezioni, insomma, quindi tutto il blocco islamico più estremista non boicotta le elezioni. Cosa sperano di ottenere con questo? Cioè, comunque prendono un tot di voti, soprattutto Hamas, cioè è riuscito a radicarsi, prenderà non so quanto, sui 30% circa o un po' meno. Sì, i sondaggi, diciamo così, come gradimento, diciamo così, fondamentale, generalizzato e generalista nei momenti, diciamo, clou dell'intifada, quando il confronto armato, quindi un confronto in cui sono in primo piano comunque anche i militanti di Hamas, sia per attacco che come difesa. Questi momenti caldi, il 30% forse è un'approssimazione che funziona. Da un punto di vista elettorale, Hamas vale secondo me un po' meno. Perché Hamas e la Jihad hanno boicottato le elezioni? Sostanzialmente Hamas e la Jihad hanno... Hamas, che è poi il movimento numericamente più rilevante, hanno sempre espresso una linea molto attendista, cioè rimanere comunque fuori dai processi formali ad alto livello del processo di pace, della gestione delle istituzioni palestinesi, e mi sembra che in questo caso abbiano confermato sostanzialmente questa linea. Per il resto io sento che una delle richieste che facevano loro trattando sulle elezioni era quella di partecipare alle elezioni presidenziali nel caso in cui contemporaneamente fossero state fatte anche quelle locali, le amministrative in pratica. Per cui penso che Hamas, cioè lo interpreto così, Hamas non ha un pregiudizio netto ideologico nei confronti di... della discesa in campo anche da un punto di vista politico ed elettorale, però va cauta su quel passo, perché comunque la maggiore credibilità di Hamas da un lato gli viene dalla sua rete di strutture assistenziali, diciamo così, di relazione, di coesione sociale, e dall'altro dal fatto di essere uno dei sostanzialmente uno dei grossi poli del rifiuto degli accordi di Oslo e della difesa ad oltranza dell'intifada. Tant'è vero che anche in Fatah, che invece è dentro tutta una serie di meccanismi istituzionali, processo di pace eccetera eccetera, il candidato alternativo ad Abu Mazen era Marwan Barghouti, cioè un candidato connotato fortemente da un punto di vista della difesa sempre comunque dell'intifada e della resistenza. Per cui secondo me la leadership di Hamas mantiene un atteggiamento pragmatico, potrebbe fare dei passi, però non si vuole sputtanare sostanzialmente, non vuole disperdere la credibilità politica che ha acquistato, diciamo diventando una delle tante correnti che gestiscono poi le istituzioni palestinesi, ecco. Però mantiene comunque un atteggiamento d'apertura che è confermato anche da tutta una serie di discorsi sulla disponibilità a una tregua, sulla non interferenza rispetto alle elezioni, eccetera, eccetera.